Buongiorno Chiesa, come stiamo? Benissimo, che bello che sei qui, che bello che siamo qui riuniti come, grazie Antonio, come famiglia di Cristo, come famiglia di Dio. È una delle benedizioni più grandi delle quali noi possiamo godere nella nostra vita qui sulla terra. E quanti di voi hanno visto il film Alla ricerca della felicità? Quanti di voi hanno pianto la prima volta che hanno visto quel film? Io ho pianto tantissimo dall'inizio alla fine e ogni volta che lo rivedo continuo comunque a piangere. Sono una donna distrutta quando c'è il padre con il figlio nel bagno pubblico della stazione da solo. Non ce la posso fare, quindi c'è mio padre che dice: ma Noemi, ma perché li guardi sti film se poi devi stare così male? Non so, mi piace. Alla ricerca della felicità. Questo, oltre il fatto che c'è Will Smith in questo film, è stato proprio il titolo ad incuriosirmi, perché Alla ricerca della felicità non fa altro che racchiudere benissimo quello che è la nostra condizione. Io non ho mai conosciuto nessuno che nella vita vuole essere triste. Non lo so, voi l'avete conosciuto? Cioè, tutti quanti, nessuno escluso, tutti quanti vogliamo essere felici. Vogliamo che la nostra vita, che i nostri giorni su questa terra siano colmi di gioia, di felicità. E quindi per questo, con questo obiettivo, viviamo, per questo lavoriamo, studiamo, viaggiamo, ci facciamo una famiglia. Perché? Perché vogliamo essere felici. Siamo alla ricerca di questa gioia che ci rende completi, che ci fa stare tranquilli, che ci dà soddisfazione. Non so, io voglio essere felice, tu? Siamo tutti d'accordo? Nessuno vuole essere triste qui in questa stanza. Benissimo, quindi ho scelto il messaggio giusto. Tutti quanti vogliamo essere felici. Sapete, la parola di Dio, la Bibbia, è colma di storie di persone che ad un certo punto della loro vita hanno trovato quella gioia che stavano cercando, o magari non stavano neanche cercando intenzionalmente, ma quella gioia li ha raggiunti. E da quel momento in poi tutta la loro vita, tutta la loro esistenza è cambiata, perché hanno trovato la più completa soddisfazione, hanno trovato quella felicità, quella gioia che stavano cercando. E stamattina andremo a leggere proprio una di queste storie, che si trova in Atti 8. E io voglio incominciare dalla fine della storia con voi. Leggiamo l'ultimo versetto di questa storia, che si trova in Atti 8, al versetto 39, e dice: quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Un'altra versione dice questo: e l'eunuco non vide più Filippo, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Che cosa è successo? Fra poco vedremo chi è Filippo, chi è questo eunuco, perché era un eunuco, lo vedremo. Ma la cosa più meravigliosa di questa storia è che questo eunuco è partito in un modo ed è arrivato a casa completamente trasformato. Lui è partito, lo vedremo nella storia, da Gerusalemme in un modo. La sua condizione del cuore era in un modo, poi è arrivato a casa ed era pieno di gioia. E io voglio sapere, voglio capire perché, che cosa ha reso possibile da quest'uomo di partire in un modo e arrivare a casa in un altro. Chi, cosa, dove, in chi ha trovato questa gioia che ha riempito il suo cuore? Ed è importante che noi lo capiamo, perché forse anche noi siamo partiti da casa in un modo e possiamo arrivare a casa completamente trasformati. Forse siamo partiti da casa con le nostre situazioni, con quel senso di forse insicurezza, insoddisfazione, che siamo ancora alla ricerca di quella gioia, di quella completezza. Siamo partiti da casa in quel modo e oggi la mia preghiera è che attraverso la potenza della parola di Dio e attraverso Dio stesso noi possiamo arrivare a casa completamente trasformati, pieni di gioia. Lo vuoi anche tu? Quindi scopriamo che cosa è successo in questa storia. Andiamo a leggere adesso dall'inizio, come si fa con le storie normali, e leggiamo da Atti 8, 26-28. E dice così: Or, un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: alzati, va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Questa strada dove il Signore stava mandando Filippo era deserta. E Filippo si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, un eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto da Gerusalemme per adorare, era lì. Ora se ne stava tornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Questa è la situazione. Da una parte abbiamo Filippo. Chi è Filippo? Filippo è un uomo di Dio. È una persona che aveva dato il suo cuore a Dio e aveva detto: Gesù, io vivo su questa terra per un unico obiettivo, per adorarti, per servirti, per far sì che io possa intendere la tua volontà e possa invitare quante più persone possibili a fare la tua volontà, ad avere una relazione con te, Gesù, che sei il mio Signore. Questo è Filippo. Filippo in questa storia riceve una missione alquanto, diciamo, particolare. C'è il Signore che dice: ok, adesso Filippo, alzati e vai nel deserto. Se io fossi stata Filippo avrei detto: Signore, nel deserto? E che cosa devo andare a fare nel deserto? Perché dobbiamo capire che, e lo vediamo qualche versetto prima, Filippo stava vivendo un momento della sua vita meraviglioso. Lui predicava, faceva quello che sto facendo io in questo momento, predicava e le persone capivano chi era Gesù e lo accettavano nel proprio cuore. Lui pregava e persone guarivano, pregava, invocava il nome di Gesù e succedevano miracoli e prodigi. Stava vivendo una situazione meravigliosa dove tante persone stavano accettando Gesù, stavano riconoscendo Gesù come Signore e Salvatore della loro vita. E in tutto questo, quando la Chiesa proprio stava crescendo, in tutto questo il Signore dice: Filippo, alzati e vai in un luogo deserto. Perché? Perché Gesù sapeva che in quel luogo deserto c'era un uomo che lui amava. C'era un uomo che era ancora in cerca di quella felicità e Gesù si voleva rivelare a quest'unico e singolo uomo. Che cosa capisco io di questo? Capisco che Gesù non è attratto dai numeri, dalle folle, dalle moltitudini. Gesù ama e sta cercando il singolo. Gesù non ama i numeri. Gesù ama i volti. Gesù non vede solo le grandi chiese, i grandi stadi pieni di persone, non vede solo quello, vede anche quello e ne trae tutta la gloria, ma Gesù vede il singolo, la madre single, il padre di famiglia, lo studente, il lavoratore. Gesù vede te, Gesù vede me e vuole incontrarci. E vuole salvarci, vuole far sì che la nostra vita sia riempita di quella gioia che ci dà completa soddisfazione in Lui. Gesù vede te, Gesù vede me ed è pronto a raggiungerci nel nostro deserto. Gesù ha mandato Filippo dalla moltitudine al singolo, perché ama ogni singola persona. Amen? E questo è proprio, proprio quello che ha fatto con l'eunuco, con questo eunuco etiope. È un po' difficile dire la parola eunuco, c'è questo dittongo che non mi esce molto bene. Chi era quest'uomo? Quest'uomo Era un uomo che aveva bisogno veramente di un lavoro. Cioè, proprio aveva bisogno di un'entrata questo uomo. Perché lui era al servizio della regina etiope. E quindi quello che succedeva è che il re si voleva assicurare che nessuno entrasse in atteggiamenti particolari né con la regina né con nessuno delle sue servitrici. E quindi che succedeva? Succedeva che il curriculum per un funzionario della regina, mentre il nostro curriculum dice è necessario essere automuniti, il suo, l'applicazione per il lavoro, diceva è necessario essere eunuchi, è necessario castrarsi. Così, proprio diretto. E questo eunuco, questo etiope, ha accettato questa sfida. Aveva bisogno di un lavoro, quindi lavorava per la regina, era in questa condizione. E il suo lavoro era molto prestigioso, ma a parte tutto il resto, era molto prestigioso. Lui godeva del rispetto di tutti. Era rispettato, le persone ubbidivano a quello che lui diceva. Tuttavia, nei confronti del popolo di Dio, fatemi dire così, nei confronti della Chiesa del tempo, l'eunuco non era visto di buon occhio, perché proprio per questo fatto che era castrato, era stato mutilato. E quindi lui stava cercando Dio, lo vediamo che stava leggendo il profeta Isaia, il libro del profeta Isaia, cercava di capire, ma nei confronti della Chiesa del tempo, lui non correva buon sangue. I giudei, che erano la Chiesa del tempo, non lo accettavano. Dicevano, no, tu non puoi entrare nel Tempio, tu non puoi essere uno di noi. Ma Gesù la pensava diversamente. Sì, ecco perché c'è questa storia. Dio aveva altro in mente, perché Dio amava questa persona e Dio voleva che questa persona fosse salvata, come vuole che tutto il mondo sia salvato. Allora, se posso permettermi di darci un consiglio, è questo. Non facciamo sì che la nostra esperienza con le persone, magari anche della Chiesa, le delusioni che abbiamo avuto, o se siamo stati rigettati da qualcuno dal quale non ci aspettavamo assolutamente un atteggiamento del genere, non permettiamo a queste situazioni, a un errore umano, di condizionare la relazione che invece noi possiamo avere direttamente con Gesù. Perché Gesù vuole salvare la nostra vita, la tua vita, come esattamente voleva salvare la vita dell'eunuco. Non c'è difetto troppo grande, non c'è peccato troppo grande, non c'è situazione troppo compromessa che possa far sì che Dio ci ami di meno, che possa far sì che Dio ci desideri di meno. Il Vangelo, il messaggio di Gesù è per tutti, è inclusivo. E i giudei stavano rendendo quel Vangelo valido solo per una categoria di persone e l'eunuco non rientrava in questa categoria. Non facciamo lo stesso errore. Il Vangelo è per tutti. Gesù è morto ed è risorto e vuole portare speranza, amore e gioia a tutti. Non pensare che Gesù sia venuto solo per una categoria di persone. Non pensare questo, perché non c'è cosa più lontana dalla verità. E Chiesa, quando parliamo di Gesù, quando presentiamo il Vangelo, non facciamo questo errore. Non facciamo per spassare il messaggio che il Vangelo sia solo per un determinato tipo di persone. Perché Gesù è morto ed è risorto per l'eunuco e per il sacerdote del Tempio. E Gesù oggi vuole salvare la mamma casalinga come la donna in carriera, vuole salvare l'operaio come il dirigente, vuole salvare il filosofo come l'analfabeta. Gesù vuole e può salvare tutti. Amen? E in questo tutti ci sei anche tu, ci sono anche io. Quale grazia meravigliosa, quale gioia, non è paragonabile a nulla. Ed è proprio questo il messaggio che Filippo si è trovato a condividere poi con l'eunuco. L'eunuco stava leggendo, immaginatevelo, sul carro, in viaggio, al caldo, al sole, nel deserto, che leggeva queste parole e voleva capirne il significato, ma proprio non ci stava capendo un tubo. Non, niente. Avete presente quando tipo leggete quei versi, dai, capita anche a noi, no? Quei versi della Bibbia che tu li leggi e dici, Signore, ma che cos'è che mi vuoi dire? L'eunuco stava facendo esattamente, non è mai successo a nessuno, che uno legge e non capisce. Allora, mi fate sentire così da sola? È successo. L'eunuco era esattamente in questa situazione, leggeva e non capiva, ma voleva comprendere, era aperto, voleva essere trasformato da Gesù, dalla sua parola. Sentiva, non capiva, ma sentiva che c'era qualcosa di più e voleva tanto comprenderne il significato che ha permesso a un perfetto sconosciuto di salire sul suo carro e dire, per piacere, dimmi, che cosa significano queste parole? Leggiamo che cosa stava leggendo l'eunuco circa 2000 anni fa. Dice, stava leggendo queste parole, ed egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto bocca. Nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via. Ma chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Queste sono le parole che stava leggendo l'eunuco. E poi continua la storia in atti e dice, e l'eunuco, rivolto a Filippo, disse, ti prego, di chi è che sta parlando questo profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? E Filippo presa parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Ripeti con me, gli annunziò Gesù. Filippo gli annunziò Gesù. Perché Filippo non parlò di se stesso. Non parlò dei miracoli che aveva fatto qualche giorno prima. Non parlò della chiesa che stava fiorendo in tutta l'Asia e in quella parte del mondo lì. Non parlò di niente di tutto questo. Filippo gli annunziò Gesù. Perché Filippo sapeva che Gesù era l'unico che poteva rispondere alla vera domanda che l'eunuco aveva nel suo cuore. Filippo sapeva che Gesù era l'unico che poteva rispondere al bisogno della vita dell'eunuco. E io oggi so che Gesù è l'unico che può riempire la nostra vita. Che tu sia qui per la prima volta e stai scoprendo adesso che questo Gesù è un Gesù che parla, e che stai scoprendo adesso che la Bibbia veramente la possiamo capire, stai scoprendo adesso che possiamo adorare Gesù con canti e con musica, stai scoprendo ora tutto questo. Che tu sia in questa situazione oppure che tu venga qui da centinaia di anni e Gesù lo conosci, ma hai ancora quel vuoto dentro. Oggi quel vuoto Gesù lo vuole riempire. Perché se c'è, vuol dire che ancora Gesù non è al centro della nostra vita. Non abbiamo arreso tutto a Lui. E oggi questa è la nostra occasione. Questa è la nostra occasione. Filippo gli annunziò Gesù. Allora ve lo dico chiaramente. L'eunuco in quel momento poteva leggere qualsiasi punto della Bibbia. Poteva leggere Genesi, Esodo, Numeri, Lamentazioni. Poteva leggere tutto. Filippo avrebbe poi annunciato Gesù. Perché tutta la Bibbia parla di Gesù, perché tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi leggiamo parla di Gesù. Il Vecchio Testamento ci proietta verso quello che Gesù è venuto a fare sulla terra. Il Nuovo Testamento poi ce lo spiega, ci dice nel dettaglio quello che è successo e poi ci continua a spiegare le conseguenze che Gesù ha portato attraverso il suo sacrificio. Tutto parla di Gesù. Non leggiamo la Bibbia per conoscere noi stessi, già ci conosciamo. Leggiamo la Bibbia per conoscere Gesù, perché è l'unico che può che può darci la soddisfazione più completa. L'eunuco legge come una pecora verso il macello, come un agnello muto davanti a chi lo tuosa, non aperse bocca. E dice, ma di che sta parlando? Filippo, aiutami. Di che sta parlando? E Filippo gli dice, sta parlando di Gesù. Sta parlando del tuo creatore. Sta parlando di colui che ha lasciato il trono accanto a suo padre e da Dio si è fatto uomo. Ed è venuto su questa terra e ha vissuto 33 anni. E durante la sua vita ha fatto miracoli, ha guarito, ha liberato. E poi ad un certo punto doveva adempiere, ha voluto ubbidire, adempiere alla volontà di suo padre. Ed è morto sulla croce. Per te, eunuco, l'ha fatto per te. E io oggi, 2000 anni dopo, ti voglio dire che l'ha fatto per te. Per te, perché ti ha creato, perché ti ama. Perché ti vuole indietro. Gesù su quella croce ha fatto sì che noi potessimo essere riconciliati a Dio. Perché siamo stati ribelli. Perché se noi sentiamo quel vuoto dentro il nostro cuore è perché siamo stati disubbidienti. Perché ci siamo allontanati da Dio. Abbiamo detto, ehi, voglio fare di testa mia. E le abbiamo voltato le spalle. E da lì è incominciato tutto quello che di brutto poteva succedere. E distanza si è creata, ma Gesù è venuto e quella distanza l'ha colmata. E grazie al suo sacrificio adesso possiamo fare pace con Dio, con nostro Padre, che era arrabbiato, che era pieno di ira nei nostri confronti, perché l'abbiamo rigettato, ma Gesù si è messo addosso quell'ira e ha portato pace. Ora noi possiamo essere in pace con Dio attraverso Gesù. Gesù è venuto per riconciliarci, Gesù è venuto per giustificarci come una pecora al macello. È stato, si è sacrificato, un prezzo doveva essere pagato. E l'ha pagato Lui, Gesù il Messia, il Re, il Salvatore, Dio in persona poteva farsi giustizia in un altro modo. Eppure no, è venuto ed è diventato giustizia per noi. E cioè, ha reso giusti noi. Non ti abituare a sentire questa storia, perché questa non è una storia, questa è la verità. Gesù ci ha riconciliato, Gesù ci ha giustificato e Gesù ci ha reso liberi. Ehi, tu puoi vivere libero dal tuo peccato, dalla tua disubbidienza, puoi liberarti dal tuo senso di solitudine, puoi liberarti dal tuo senso di insoddisfazione. Puoi liberarti dalla tua malattia. Gesù è per te tutte queste cose, proprio come lo era e come lo è stato per l'eunuco. Sei felice? Sei veramente felice? Perché se non hai trovato questa gioia, devi fare come l'eunuco. Arrenditi a Gesù. L'eunuco ha sentito questo? E ha detto, ehi, dove sta l'acqua? Dov'è dell'acqua? Voglio battezzarmi, voglio seguire Gesù, voglio fare la sua volontà. Aiutami, voglio fare tutto questo. E Filippo ha detto, ehi, se credi, è chiaro, qua c'è una pozzanghera, ci battezziamo qui. Proprio quello che sta per succedere. Il signor Vito, il fratello Vito e Roberto hanno capito e hanno soprattutto creduto che Gesù è il loro salvatore. Per questo oggi li vedremo essere battezzati. Questa è la buona notizia, che era valida 2000 anni fa e continua ad essere valida oggi. L'eunuco, e con questo voglio concludere, sto concludendo, ritornò a casa pieno di gioia. Non è che non ce li aveva più problemi, è rimasto eunuco, per intenderci. È ritornato a servire questa regina etiope che di Dio non ne voleva sapere niente. I problemi sono rimasti nella vita dell'eunuco, ma è ritornato a casa pieno di gioia. Perché? Perché chiesa, ascoltami bene, il nostro più grande problema, il più grande problema che possiamo avere nella nostra vita è non conoscere Gesù. Una volta che l'abbiamo conosciuto e che abbiamo risolto questo problema, tutti gli altri problemi rimangono tali, ma sono dei problemi in prospettiva. Non ho un lavoro, è un problema, però c'ho Gesù. Ho Gesù che provvede per me, che non mi fa mancare niente. La mia famiglia sta andando a rotoli, è un problema. Però c'ho Gesù che mi può aiutare a chiedere perdono, a trovare un accordo, che si può servire della Chiesa per darmi un sostegno. Sono malato, mi hanno diagnosticato un tumore. Caspita, è un problema. Però ho Gesù. Ho Gesù che può fare due cose. O può guarirmi, oppure può aiutarmi a vivere la mia malattia in un modo che lo glorifica. Questo è il nostro Gesù. Questo è il mio Gesù. E può diventare il tuo. Non farti sfuggire questa occasione, perché la gioia che stai cercando, che forse hai trovato e forse l'hai persa strada facendo, la puoi ritrovare. La puoi ritrovare ed è in Gesù. Amen? Sì? Amen. Signore Gesù, io ti prego che tu possa continuare a parlare al cuore dei tuoi figli. Gesù, incontraci. Dove siamo? E rivelati. Riempi la nostra vita della vera gioia. Riempi la nostra vita di te, della tua presenza. Facci comprendere, Gesù, che tu sei l'unica vera cosa della quale noi davvero abbiamo bisogno. Ed è urgente il nostro bisogno. Continua a parlare, Gesù. Continua ad operare, Spirito Santo. E che oggi possiamo riconoscere che come hai salvato l'eunuco, vuoi salvare anche noi. Che come hai amato l'eunuco, ami anche noi. E noi vogliamo abbracciare questo amore in tutto e per tutto. Amen.